Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Dovete sapere innanzitutto che l'essere umano è composto da tre parti: dal corpo, dallo spirito e dall'anima. Quando l'uomo muore, il corpo, che è polvere, torna alla polvere. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato e l'anima continua a vivere in un luogo nell'aldilà, cioè in un luogo a questi nostri occhi invisibile, che naturalmente è diverso a seconda che l'uomo muoia nei suoi peccati o muoia in Cristo. Allora, l'uomo che muore nei suoi peccati va in un luogo di tormento che si chiama Hades, comunemente conosciuto con il termine di inferno. È un luogo di cui parla la Sacra Scrittura. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ne ha parlato, lo ha citato nella, per esempio, nella storia del ricco e Lazzaro. E in questa storia vediamo che un uomo ricco morì e fu seppellito. E siccome che morì nei suoi peccati, andò nell'Hades, appunto in questo luogo di tormento. E voglio leggervi alcune parole tratte da Luca, capitolo 16, dove appunto Gesù ha, dove c'è questo, diciamo, questa storia raccontata da Gesù. Dal versetto 23 si legge, quindi capitolo 16 di Luca, dal versetto 23, e nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Dunque, esiste un luogo di tormento chiamato Hades, dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. E questo uomo appunto morì nei suoi peccati e si ritrovò nell'Hades, tormentato in mezzo al fuoco. È confermato pienamente che in questo luogo l'anima viene tormentata. Dunque, il luogo dove voi che siete sotto il peccato, il luogo dove state andando è un luogo orribile, è l'inferno. Perché state andando in questo luogo? Perché siete dei peccatori, perché siete sotto il peccato, siete schiavi del peccato. E siccome appunto avete peccato, l'ira di Dio è sopra di voi. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, la Scrittura dice, e il peccato è la violazione della legge. Di quale legge? Della legge di Dio. Quindi, avendo violato la legge di Dio, siete nemici di Dio, del legislatore, del solo vero Dio. E quindi voi meritate di andare all'inferno. E là, sappiate, in questo preciso momento, mentre io vi sto parlando, le anime appunto di quelli che sono morti nei loro peccati sono là, tormentate. Ed è bene che voi riflettiate a questo, perché per scampare a questo luogo di tormento c'è solo una via. C'è solo una via. La via della salvezza, infatti, è una sola. Non ci sono più vie di salvezza. No. E questo perché c'è un solo Salvatore. Il Dio Padre ha mandato infatti il suo figliolo nel mondo per essere il Salvatore del mondo. All'infuori di Lui, cioè all'infuori di Gesù Cristo, non v'è salvezza alcuna. Quindi la via della salvezza che io vi annunzio è questa: ravvedetevi e credete nell'Evangelo, ossia nella buona novella che Gesù è il Cristo o Messia, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, nel quale credendo sarete salvati dai vostri peccati, otterrete la remissione dei vostri peccati, sarete giustificati, sarete riconciliati con Dio e otterrete la vita eterna. Credendo dunque nell'Evangelo, l'uomo viene salvato, salvato per la grazia di Dio. Ecco perché vi esorto a ravvedervi, a credere nell'Evangelo, perché solamente credendo nell'Evangelo potete ottenere la remissione dei vostri peccati. Di Lui infatti, cioè di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. È fondamentale ricevere da Dio la remissione dei peccati per scampare all'inferno. E dunque ecco perché io vi scongiuro nel nome del Signore per l'ennesima volta a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, perché il Dio nella sua grande misericordia perdona all'uomo che crede nel suo figliolo tutti i suoi peccati. Tutti i tuoi peccati, quindi, o peccatori, ti saranno cancellati, perdonati. In un istante, tutti quei debiti che tu hai accumulato contro Dio ti saranno rimessi, in un istante, per la grazia di Dio, credendo nell'Evangelo. Gesù Cristo, infatti, sulla croce, quando morì per i nostri peccati, sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. E quindi in Lui c'è la remissione dei peccati, che si ottiene quindi per grazia. Ecco dunque che ti ho fatto sapere dove stai andando, cioè ti ho fatto sapere che stai andando all'inferno, ma ti ho anche annunziato la via per scampare all'inferno. Perché questo è il luogo dove vanno appunto le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Ma c'è un altro luogo, come ti ho detto, ed è un luogo nell'aldilà, che è un luogo di riposo, un luogo di conforto, dove vanno le anime di coloro che muoiono in Cristo e quindi con i loro peccati rimessi, cancellati. Ebbene, questo luogo è il Regno dei Cieli, il Paradiso, ed è il riposo di Dio. Là entrano tutti coloro che muoiono in Cristo e si riposano dalle loro fatiche. Là c'è la gloria, là c'è la pace, là non c'è più dolore, non c'è più fatica, là non c'è più afflizione. In paradiso. Il paradiso è un luogo meraviglioso. È il regno dei cieli, dove appunto il Signore salva le anime di coloro che muoiono in Cristo. Quindi che muoiono nella fede nel figliolo di Dio. Ecco dunque perché ti ho annunziato l'Evangelo, affinché tu credendo, tu peccatore, affinché tu credendo nell'Evangelo sia non solo salvato dai tuoi peccati, ma anche poi salvato dal Signore nel suo regno celeste, dove appunto c'è il Signore Gesù, perché il Signore Gesù fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. E là dove è Gesù, là vanno coloro che appunto muoiono in Cristo, in cielo. Te lo ripeto, il cielo è un luogo meraviglioso, un luogo di riposo, perché là si riposano i santi dalle loro fatiche. Quindi ravvediti, o uomo che brancoli nel buio, che non sai dove stai andando, che sei senza vita, senza pace, senza gioia, che sei senza Cristo. Ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo. Signore è buono, avrà misericordia di te, ti perdonerà tutti i tuoi peccati, tutti, ti purificherà appieno. La tua coscienza contaminata sarà purificata dal sangue prezioso di Cristo Gesù. Ti sentirai libero dal peccato, finalmente libero, liberato. Sì, proprio così. Ti sentirai riconciliato con Dio, perché ora sei un nemico di Dio. Ma quando crederai nell'Evangelo, ti sentirai riconciliato con Dio, per fede nel Signore Gesù Cristo. E avrai la certezza della vita eterna, perché la vita eterna è il dono di Dio che hanno coloro che credono nel nome del figliolo di Dio. Avrai la certezza appunto che, te lo ripeto per l'ennesima volta, e quando morirai, il Signore salverà l'anima tua nel suo regno celeste. Quindi, o uomo, ravvediti e credi nella buona novella che Gesù è il Cristo di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda.